627. Amaretti seconda maniera. Eccovi un'altra ricetta di amaretti che giudico migliori dei precedenti e di più facile esecuzione. Zucchero bianco a velo grammi 300, mandorle dolci grammi 180, mandorle amare grammi 20, chiare d'uovo numero 2. Le mandorle spellatele e seccatele al sole o al fuoco, poi pestatele fini nel mortaio con una chiara versata in più volte. Fatto questo, mescolateci la metà dello zucchero, mantrugiando il composto con una mano. Dopo versatelo in un vaso e mantrugiando sempre perché si incorpori, aggiungete una mezza chiara, poi l'altra metà dello zucchero e appresso l'ultima mezza chiara. Otterrete così lavorato un impasto omogeneo e di giusta consistenza che potrete foggiare a bastone per tagliarlo a pezzetti tutti uguali. Prendeteli su a uno con le mani bagnate alquanto per formarne delle pallottole grosse come le noci. Schiacciatele alla grossezza di un centimetro e per il resto regolatevi come per i precedenti, ma spolverizzateli leggermente di zucchero a velo prima di metterli in forno a calore ardente. E dico forno perché il forno da campagna non sarebbe al caso per questa pasta. Con questa dose otterrete una trentina di amaretti.